campanista, là non esce malissimo. Dai, un attimino che cambio posizione, dai. Spengo da questa parte qua, riprendo dalla B-zona. B come la B-zona, non la P-zona, B-zona. Ok, ok. Riprendo da Jimmy Invertebrato. Ok, ok. Ok, datemi un attimino di tempo, ragazzi, un secondo. Sì, ok, fammi di caso. Mica l'ascolto, mi con le orecchie di porco. L'ascolto già. Era col saldatore in mano. Proviamo nel sciapito. Ciao Gianpa, non ti sento stasera, tutto nuda. Dai, adesso di te. Attento Gianpaolo, che bello che sei con il capelletto, cambio! Guarda, fammi la vita. Attenzione, canali 12, cambio! Che forse è meglio non toccare più nulla nella stazione, perché gira, che te lo gira poi va a finirci la roba vecchia al posto della nuova, quindi chi lascia la roba vecchia per la nuova, in ciulato si ritrova. E dipende, ci sono tanti punti di vista già. Io mi vedo questo per prendere un'altra cosa, hai capito? Una cosa che mi piace poi, se è vecchia o nuova, l'importante è che mi piaccia, hai capito? Giustamente deve essere almeno un po' presentabile. Attenzione Gianluca, cambio! Facciamo il sì, Ah, ecco. Ti ho rilanciato, vai, da poco fa, invece non è ripreso. Ha ripreso quella donna col pelo, con la borsetta. Allora c'è anche la cugliuta. Positivo, ormai non si vede più ormai. E quindi c'è da fare la donna. Beh, almeno si può guadagnare qualche soldino in più, dai. Non posso raccontarsi lo spiccioli. E andare, dai. Ciao, l'amica, dai. Ma l'hai capito chi ero già? Sì. Sì, invece ne ha vinto. Come va, Luca? Ma non te va la voglia. Sì, scendi. Sare, non ce ne va. E vabbè, se lo dico, lo sputtano. E prova a dirlo, dai. Dopo te lo dico. Scendi. Scendi, scendi. Ok. Ok. Ciao Paolo. Qua sono, vieni. Dai. Aspetta, c'è la figlia, aspetta. Come sono fatto ora? Hai già fatto? C'è la giustizia? Le damasche? Allora. E tu adesso Gianni, cosa stai usando com'è? Sempre con la radio fatta? Ecco, io non ne ho ecco. Quando usi l'ecco? Lo usi quello della radio? Certo. Oh, già Paolo ancora non me l'ha ancora fatto vedere come è troppo, vabbè. Vale. Quello con le rotelle. Me l'ho dato io. Ehi. Non ce l'ha fatto vedere. E quello c'è ben anche col sacco. Come Giampa, mi stavi dicendo come quello del ventiglio. Sì, ma e come si chiama quello sacco Gianni? Come si chiama Gianni quel microfono? Vale. Mamma, l'ha dato per Schubert. No, aspetta, non quello a tavola, l'ho già. Non quello a tavola, gli fa male. Ah, il palmare è Proxen. Ma che cazzo microfono? Io ti devo lasciare, ma se entra su internet, quando vai su email lo cerchi. Sì, sì, lo cerco, già. Lu. Dimmi avanti. Ti ci scrivi Proxel DM1000 e la ciappi subito. No. C'è la batteria nuova polsi? Ehi, non c'è bisogno di quello che fa su email. Su Google ci scrivi Proxel DM1000, microfono amplificato palmare e te lo da subito. Oh, già, magari l'hai disinfettato in macchina? No. Se c'ho il coso, Gianlu, l'F22. Prima lo trattavo in macchina, Gianlu, adesso ultimamente c'ho quello modificato. Io c'ho proprio quel microfono, ma come ti ha fatto, lui? È una cosa che è feo. Cosa? Su subito la mamma sul fegato, non ha già avuto l'uomo, il 16, il 20, il 22, il 22 c'era anche, su, mi se mi ricordo bene. Sì, il 22, che è tipo le 300 lì. La papa, caro dai, che microfono è un gesso. Ti do un bip di fare che c'è con le aiatina. Quella bip, ma non si risente. Aiuta che ti fa vedere mi tutte cazzo in pari, se fatti mio. Già Paolo sono di te. Ha fatto da allenatore pintato qui, in televisione, già. Davvero? Ha fatto, anche fatto una fiction, no, da consultora. La passione di Cristo, no, sai, no, l'ha fatta dopo 3 giorni Dio risorge, no? Che va a mettere la canzone, Dio che è morto. Però era via dove ho fatto a lui, si è detto che era via da fuori pintato, a fatta rappa. La settimana santa. Sì, allora. Sì. Ma che vediamo, cosa devi dire? No, ti stavo correggendo un attimino, che ti stai confondendo tu con l'F22, che non ha bip. Ecco io, no, mi sono confuso, sì, non mi ricordavo bene la verità, sì, perché io l'ho avuto tutti e due, c'era anche già un po', c'è un po' di marito della dottura, il danno del coraggio, ma anche lui, sì, uno, mi pare uno che gli ha dato pure, tanto non ho usato la luce, morto, giusto, ma... Mi ricordavo di uno dei due del bip che è proprio così, ma è feo. Allora, ti spiego una cosa. Quello con il bip è l'M95, capito? L'M95, quello c'ha il bip. Quello mio, in poche parole, dove c'è il PTT, c'è anche un pulsantino per aprire o chiudere l'amplificazione. E poi davanti c'ha lo slider come l'M300, è quasi uguale all'M300. Allora è diverso, quando ho ancora gli altri amici, allora è diverso, io mi ricordavo che questo mio... sono grigi, hanno il tasto della portante bianco e sul tasto in alto, sempre sul tasto, c'è un tastino che inserisce e disinserisce il tipi. E il cursore della pubblicazione è sempre come l'M300, sì, in alto, da avanti. Allora, il mio è tutto nero, della CTE, è della CTE F22, e come hai detto tu, il tasto bianco col pulsantino dove c'è il tasto ma non c'è il beep. Quello mio fa apre o chiude l'amplificazione, hai capito? Quando tu apri l'amplificazione, poi con lo slider gli dai anche quella specie di reverbero strano che sta data. Invece se non lo vuoi basta che abbassi il pulsantino e ti togli l'amplificazione e funziona con il microfono normale. Questo che così, se mi ricordi io, era così. Solo Giampaolo già lo sa meglio di me. Giampaolo sì, come ti dico io, visto che sei mio, visto il microfono mi vai giù in chivi, visto il tastino cos'era, lo pippo. Già così, questo che so. Allora sono due diversi, ma somigliamo. Sono due cose diverse, che si assomigliano, però quello anche Giampaolo ha confermato, il tastino del dove c'è la pensante, di dove c'è il coso farà più, ma per questo non soddisfa per niente come amplificazione, proprio è meglio un microfono normale, guarda. Avevo un microfono amplificato che non funziona, come se non funziona meglio un microfono normale. L'unico fa male che a me mi soddisfa è questo qua che sto usando io, l'M300. Miglioramento. Cosa ha messo? Sanno, un vento anche. siamo lì. Cazzo, adesso basta, ragazzo, sto tempo. Il sole domani c'è. Domani c'è il sole. Dopodomani pioggia. Dopodomani pioggia, sì, c'è visto, quindi siamo lì, dai. Sì, lasciato andare. Figurati, tanto per cambiare, un giorno sì, un giorno no. Sì, va bene. Quando arriverà il caldo, vogliamo la pioggia e vogliamo il freddo. Lei, vabbè, chi ci accontenterà non si sa, dai. Va bene. Ma che? E quello è vero, non siamo mai contenti. Quando c'è troppo caldo, ma era per almeno troppo, quando c'era freddo, per almeno si può passare con questa maglietta in più, qualche cosa in più, riesce a sopportare, ma il caldo non è più fastidioso. Quello è vero, eh. Vabbè, ma il freddo, non tanto freddo, ma tanto l'umidità, alle ossa. Noi adesso non siamo più giovincelli, eh. Noi adesso cominciamo, una volta che abbiamo superato la prima sponda, non siamo più trentenni, Giallo. Quello è vero, cominciamo un po' di reumatismi, questo ciacchetto, dai, diciamola. Ma siamo conseguenza del passare degli anni, anche da molte cose di lasciate perdere, capito? Non prendo precauzione, magari continuarsi, io voglio questo sacrificio di non morirmi dalla testa, no? E continuarsi, che cosa vuoi che tu qualcosa poi non dia il suo resoconto? Beh, il resoconto poi esce fuori, capito? Reso conto esce fuori, quante notti passate a passeggiare sotto l'acqua, mezzo all'umidità, quante notti, Giallo? Quante notti sotto l'umidità, bravo, alla pioggia al vento, è vero, anche quello stavo dimenticando, ma nel senso che ho detto, diciamo non tanto il freddo e freddo, ma come dicevo proprio l'umidità, se non sono animale, ha detto anche che sono lì adesso, poi c'è ancora, mi si è proprio a contatto proprio dal sedile, quello e quell'altro. Quello è, capito, la fastidio, l'umidità, anche se ti copre bene, però, insomma, non subisci, magari non ne risenti, però con passare il tempo poi logicamente è lì. Sì, vabbè, dai, comunque. Tiriamo avanti. Pian pianino intanto lì. Ma c'è tanta, ho sentito tanta gente in questo periodo a letto con l'influenza, nessuno è calato. E tu, ma strano ancora, mamma mia, non è ancora un po' di raffreddore, sì, un po' di raffreddore non nascondo. Però sono stato un po' furbo, avevo visto che era un pochettino così, che mi sembrava pure subito quelle attivine, e invece me l'ha tamponata. Ma invece proprio sentito gente con febbre alta a casa. Ehi, già ce n'è stata, già ce n'è stata, con febbre e quant'altro, ma quest'anno posso dire di quasi niente, diciamo, a parte qualche giornata, un po' il dolcimento, un po' di cose, così, ma proprio raffreddori di quelli tosti, mazza Dio, no. Magari come hai fatto te quando ti vedi un po' addolcito, un po' mezzo intasato, una aspirina e tiriamo. E vabbè, e dipende sempre da adesso, dipenderà dall'immunità, dipenderà dal modo che ognuno ha da fare, cosa ne so? Sì, no, è fatto così. È così. Ma quando sto sempre a correnti, dopo magari scendo al caldo, al freddo, è quello di proprio che ti fa male. Lo sbatto di temperatura nel ghiaccio, capito? Eh beh, gli sbatti basse temperature sono quelle, diciamo che sono quelle più quelle che ti fregano, per dire, dai, sì, vabbè, ma secondo me è anche una questione di fisico, o è questione di fisico, è questione di immunità che ognuno di noi può avere, capisci? Non lo so, io grazie a Dio in vita mia raffreddori, ma raramente, no. Capito? No, io quello che ho è che mangio molta frutta, mele, arance, quella roba lì, che poi dicono che fa molto bene, diciamo, per l'influenza, perché contengono molte vitamine e quant'altro. Sì, come no? È proprio così. Sono ricche proprio di vitamine e di proteine, come vogliamo dire, degli anticorpi, diciamo, quindi degli antibiotici al naturale. Sì, ma è così. Ehi, va bene. Un mese fa sono passato lì in macelleria da Marco Carboni, quella che già lo sai dov'è. Io sono passato lì a prendere, ricordo, mi sembra delle fettine o che cosa, sul banco ho visto l'arco. Ma guarda, mi è venuta sta voglia, no? Vabbè, mangio l'arco, vengo a casa, sai, il classico l'arco, fai la fettina a pezzi di pane. Beh, sta giovato che sia mangiata, però sono stato 3 giorni, guarda, pareva che ero con piedi. Buona rete, guarda, ma così sì, è lì a, come si chiama, la macelleria, quella che c'è vicino alle case di Porta Pepito Pizza, no? Esatto, proprio di fronte da lui. Cazzo, ho fatto questa mangiata, ma per 3 giorni, guarda, fra 3 giorni sono che sono rimasta a riso in bianco e brodo, guarda gli sciamattoni, lui. E tu ti vuoi, una volta mi si cerca una cosa del genere, col formaggio quello, diciamo come dire, non è un formaggio maschio, è un cremoso, è uscito una volta una forma, un amico, una settimana fa, così mangiando che io non bevo, cioè così con Simone di bere un bicchiere di vino, io di solito nei pranzi bevo acqua, oppure qualche bicchiere di vino ma mischiato con l'acqua, quindi non una cosa. E c'era una bottiglia di vino iniziata di quel canonau di Canonau, l'ha iniziata mia figlia, così mangiava due cose, due bicchieri. Beh, lo sai che mi sono concorso un altro di mano, faria, cioè, faria fuori dal mondo. Ancora meglio. In questo caso di perché sera, la sera capita per dire invece di pianeti magari un po' leggero, magari ne approfitti, ti appesantisci a pranzo tanto e quanto, e quindi diciamo non è un'alimentazione diciamo standard corretta, che poi standard corretta chi è che la potrebbe fare, c'è magari chi la segue, chi la fa, che cosa, però la maggior parte non la segue l'alimentazione corretta, abitata la quantità, perché la sera magari uno si abbuffa, magari dopo aver mangiato cosa fa, si ci butta sul divano, magari si ci butta dentro il letto, insomma, e allora comincia la digestione a faticarsi, insomma, e tutto quanto, però vabbè, comunque ciccia, dai Gianluca, ti lascio, ce la risentiamo tutte le prossime, eh?